A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Corte di Cassazione, sezione periale, ha emesso all'udienza pubblica nel procedimento penale numero 27.884/2013, iscritto al numero 8 dell'udienza pubblica del 30 luglio 2013, la seguente decisione. Rigetta i ricorsi di Agrama Frank, Galetto Gabriella Lorenzano Daniele, che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, per violazione dell'articolo 12,2 decreto legislativo 10 marzo 2000 numero 74, e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché ridetermini la pena accessoria nei limiti temporali fissati dal citato articolo 12, ai sensi dell'articolo 133 codice penale, valutazione non consentita alla Corte di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624,2 codice procedura penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. Condanna tutti gli imputati in solido al pagamento in favore della parte civile, Agenzia delle Entrate, delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000. Oltre accessori come per legge. L'udienza pubblica è terminata. Era il 1 agosto 2013 e con questa sentenza i giudici della sezione feriale della Cassazione pronunciavano la prima condanna definitiva per Silvio Berlusconi e di conseguenza scrivevano pure un pezzo di storia, visto che questo verdetto ha poi portato alla decadenza da senatore dell'ex premier e ai terremoti politici successivi. Una storia lunga e complicata, quella del processo Mediaset, concluso con la condanna a 4 anni per frode fiscale, la storia della compravendita dei diritti TV e dei soldi sottratti alle casse dello Stato. Ma vista nel suo insieme è anche un pezzo di quella più ampia storia del tesoro nascosto di Silvio Berlusconi, del Cavaliere Nero, per dirla col titolo del libro inchiesta di Paolo Biondani e Carlo Porcedda, edito da Chiare Lettere. La sentenza Mediaset è stata senza dubbio uno dei fatti principali del 2013, come senza dubbio Silvio Berlusconi è uno dei protagonisti della vita politica degli ultimi 20 anni e di una stagione forse chiusa. Ed è per questo che diventa anche un pezzo della storia d'Italia, la meticolosa ricostruzione che questi due cronisti fanno delle ricchezze dell'ex premier e di quelle che una sentenza ormai definitiva ha stabilito essere illecite. Ci si ritrova così nel fantastico mondo delle offshore o nel nero targato Milan o nel gioco delle tre carte, come recitano i sottotitoli, oppure in vicende a tratti esilaranti come quando migliaia di euro furono mandati ad una macelleria. Ma ci si ritrova soprattutto, stando ad una sentenza ormai definitiva, nella storia di un'evasione fiscale con pochissimi precedenti per proporzioni, anche se chiaramente la lettura della difesa è opposta. È questa la storia del Cavaliere Nero, raccontata ora da Paolo Biondani, già cronista giudiziario del Corriere della Sera, ora inviato dell'Espresso. C'è una prima parte di soldi, il cosiddetto nero aziendale di Oliverian, che sono attribuiti con certezza da sentenze definitive al gruppo Fininvest e quindi a lui come proprietario del gruppo Fininvest, al gruppo Fininvest sotto il suo controllo diretto, perché si parla del periodo in cui non è ancora sceso in politica. E poi c'è un secondo, come dire, serbatoio di fondi neri. Noi abbiamo preso come base questi, però non basta in realtà. A rigore, se non so, uno storico dovesse scrivere un libro di storia, e quindi svincolato dagli obblighi giudiziari della cronaca anche. Esatto, sul piano giudiziario si può dare per certo solo quello che è provato al di là di ogni ragionevole dubbio, ma in moltissimi casi, faccio un esempio, c'è una società offshore che si chiama Oliverian che gestiva una montagna di soldi, 775 milioni di euro sono passati su quel conto. Quella società offshore aveva sede in un'isola di diritto britannico, il classico paradiso fiscale. Questa stima di 1.550 miliardi di vecchie lire, questo conteggio, si basa sul conto svizzero, che è l'unico conto conosciuto di questa società, ma dalle carte risulta che ci avesse altri 4 conti in giro per il mondo. Dove si è finiti non lo sa nessuno. Ecco, quindi quello che possiamo dire è quello che anche tutto il vostro lavoro di riordino, diciamo, su quello che fin qui è stato scoperto e accertato, è che ci sono comunque delle tracce di parti di questo tesoro che non è ancora possibile quantificare, stimare né anche localizzare. Quindi è ancora più ampio di quanto è stato ricostruito e di quanto voi ricostruite arrivando ad una cifra stratosferica. Ricordiamola qual è. Allora, la cifra che noi diamo per certa, noi, nel senso andandosi a leggere tutte le sentenze definitive, incontestate, andando a controllare che i conti correnti, per esempio c'è questo conto di Denia, risulta proprio documentalmente intestato al gruppo Fininvest, quindi è difficile dire che non sia nero aziendale un conto svizzero su cui c'è scritto a Fininvest, insomma non dichiarato. Arriviamo alla somma sbalorditiva di 1.277 milioni di euro. Questi sono i soldi che giudiziariamente risultano certi, ma più che giudiziariamente, sul piano giudiziario sarebbe anche ora di cominciare a guardare le carte che stanno sotto i processi. Una cifra di questo tipo ha dei precedenti, si avvicina a qualche altro caso analogo? Normalmente cifre del genere imboscate all'estero le si trovano nelle grandi bancarotte, è difficile trovarle prima che ci sia stato un fallimento. Adesso non vorrei fare l'accostamento suggestivo, però stiamo parlando semplicemente come ordine di grandezza di soldi spostati su conti esteri non dichiarati. Viene in mente il Banco Ambrosiano, il crack del Banco Ambrosiano, il banchiere Roberto Calvi ha spostato su una serie di società, quelle che oggi chiameremo offshore in pratica, erano 1.193 miliardi di lire del 1982, l'anno del fallimento, quindi era una montagna di soldi probabilmente più grande di questa, con società ancora attive e in bonis, floride, eccetera, tutti questi soldi all'estero. Forse l'esempio più vicino è Riva, le accuse che sono state formulate ai Riva. Le accuse conformulate ai Riva, ecco, anche se Riva lì la storia della maxi evasione fiscale. Diciamo, può succedere facilmente questo tipo di evasione internazionale per le imprese che comprano o vendono molto all'estero. Per Mediaset succedeva con l'acquisto dei film. Per comprare il film americano venivano messe di mezzo delle società offshore che figuravano apparentemente terze, in realtà sono risultate sube di Silvio Berlusconi, e in queste mediazioni in sostanza facevano una cresta automaticamente depositata all'estero. Tu prima citavi, ecco, e hai giustamente specificato, non per fare della facile suggestione, citavi il crack del Banco Ambrosiano, ma suggestione per suggestione, questo mi ha fatto ricordare, se voi raccontate nel Cavaliere Nero, diciamo, la ricostruzione del tesoro nascosto di Silvio Berlusconi, cioè di quello che è stato progressivamente è diventato il tesoro dell'ex premier del Cavaliere, si è sempre molto discusso e parlato anche delle ombre che c'erano su parte dell'origine delle ricchezze del gruppo Fininvest. Secondo te è più opaca l'origine, diciamo, della storia delle ricchezze di Berlusconi o la ricostruzione del suo tesoro poi attuale? Il mistero delle origini è che sostanzialmente è rappresentato in immagini nel film di Nanni Moretti, i soldi che piovono dal cielo, no? La cassaforte che piove, nel senso le prime grandi attività di Berlusconi edilizie soprattutto vengono finanziate da società anonime, per lo più svizzere, e in sostanza a tutt'oggi non si sa chi ci abbia messo i soldi. Va ricordato anche che all'epoca era reato portare i capitali all'estero. La nostra è la storia del nero di Berlusconi e volevamo fare una storia non di ipotesi dell'accusa, ma di certezze, come dire, raccontare ai lettori le cose che si possono dare per certe. Quello che sentenze hanno già stabilito come accertato. Nel processo di Palermo, in sostanza, come tutti dovrebbero sapere, Dell'Utri è stato condannato di nuovo in appello. Quindi c'è di nuovo la seconda condanna in secondo grado, adesso gli manca la Cassazione. Concorso esterno. In quel caso è Berlusconi che paga. Cioè, secondo l'ipotesi dell'accusa che ha tenuto in tribunale, in appello, adesso vedremo la Cassazione, Berlusconi in sostanza paga il pizzo a Cosa Nostra, ed in questo quadro assume anche lo stagliere famoso Vittorio Mangano. E quelle sono altre storie. Ecco, però è rimasta indimostrata l'ipotesi che ci siano soldi di Cosa Nostra che vanno a lui. Questa parte non è risultata provata giudiziariamente che siano entrati i soldi di Cosa Nostra, quindi volutamente non abbiamo parlato. Nella grande carrellata di fatti compaiono anche tanti personaggi personaggi che sono alla corte appunto anche di Berlusconi, che hanno avuto un ruolo anche importante nella costruzione della galassia Fininvest e anche in questa, nel percorso di questo tesoro. Berlusconi, ecco, a chi devi di più tra le varie persone che hanno collaborato con lui nella costruzione del suo tesoro? Molti li conosciamo, Fedele Confaloniere ha tuttora cariche importantissime, Marcello Dell'Utri, vabbè, l'abbiamo visto in Parlamento. Facendo questo libro abbiamo scoperto il personaggio Carlo Bernasconi, che è poco conosciuto, era con Berlusconi fin dal più o meno dalla metà degli anni 70, dai tempi della costruzione di Milano 2, era nato proprio come dirigente del settore edilizio, è diventato il re dei diritti televisivi, era proprio lui a trattare direttamente con le grandi case cinematografiche di Hollywood. Di Bernasconi si parlò anche quando cercarono di identificare lui come il Mr. B citato nella famosa lettera dell'avvocato, esatto, David Mills. Ecco Paolo, nelle tante parte e fette di questo tesoro nascosto del Cavaliere Nero c'è anche quello del tesoro rosso-nero. È la storia del nero del Milan, nel senso che parte tutto da lì in realtà. A un certo punto nel 1993-94 fallisce l'allora presidente del Torino, che si chiama Borsano, era diventato anche onorevole socialista. Fallisce, quindi come in ogni storia di bancarotta gli chiedono conto di dove diavolo sono finiti i soldi. A questo punto lui è costretto spiacevolmente a spiegare come mai sui suoi conti personali sono arrivati del denaro liquido proprio mentre la società andava in rovina. È venuto fuori che aveva tenuto, che si era preso un po' di soldi in nero dal Milan, lui ha sempre detto da Galliani, non personalmente da Berlusconi, infatti il processo fu fatto a Galliani, accusa che poi è stata annientata per dopo la nota riforma del falso in bilancio che ha sostanzialmente depenalizzato il reato di falso in bilancio. Quell'inchiesta lì per una piccola relativamente, insomma erano 10 miliardi di lire, 5 milioni di euro, per un piccolo pagamento in nero per l'acquisto di un calciatore, permise di scoprire il mondo di queste società offshore che invece avevano una montagna di soldi. E da lì è uno dei filoni che poi ha portato anche alla scoperta di tutto il resto e anche di tutti i vari conti dai nomi più fantasiosi che ad esempio anche nel processo Mills sono emersi. Ci sono anche delle storie divertenti in questo. Ad esempio? Ma ce n'è una, secondo me, la storia più spassosa dell'intero processo, quello culminato nella condanna definitiva. Dentro nel processo c'è una storia spassosissima. A un certo punto nel 95 sono arrivate ormai le indagini in mani pulite, non possono più usare le società offshore per fare il nero, per cui sono costretto a utilizzare degli intermediari in carne ed ossa. Ovviamente ricostruzione respinta della difesa. Fatto sta, devono, come dire, improvvisare da un anno all'altro degli intermediari. Ricorrono a un grossista di carni del Principato di Monaco, quindi come dire, il grossista di carni probabilmente del principe Ranieri, il quale da un giorno all'altro diventa uno dei principali fornitori di film per Mediaset, solo che c'è una società che si chiama Meat Trading, cioè commercio di carne sostanzialmente, nella stessa sede con la stessa impiegata, che era un'impiegata e mezza, una a mezzo servizio ce l'aveva, apre improvvisamente la Film Trading, che non ha mai fatto nulla, riceveva i contratti precompilati da Mediaset, c'è tutta l'analisi della sentenza del perché era una società fittizia, la quale in sostanza non fa niente, prende i soldi e li riversa su dei conti alle Bahamas, che secondo la ricostruzione del processo sono conti personali di Silvio Berlusconi, quindi è uno dei modi di fare il nero. Ma la cosa più esilarante è che a un certo punto deve essere successo un gran casino a Mediaset, perché un giorno qualcuno si sbaglia dentro Mediaset e pagano una fattura di 1.400.000 euro, mi pare, anziché alla Film Trading, alla Meat Trading, cioè pagano praticamente al macellaio. Esatto, pagare 1.400.000 euro di quarti di bue, non si capisce come mai. Con una battuta si potrebbe dire la macelleria giudiziaria. Macelleria giudiziaria. A ciascuno il suo. È stato portato il tesoro nascosto di Silvio Berlusconi? In quali luoghi porta questa caccia ai soldi sottratti al fisco nella maxi evasione condannata in via definitiva nel processo Mediaset? E in cosa consiste quel gioco delle tre carte raccontato anche in un'email agli atti del processo terminato con una condanna ormai irrevocabile per il Cavaliere, o per dirla col titolo del saggio che era lettere, per il Cavaliere Nero? Riprendiamo A ciascuno il suo da qui, seguendo le tracce tracce della caccia a questo tesoro, ripercorsa da Paolo Biondani e Carlo Porcedda, già cronista dell'ANSA, ora freelance. È un tesoro che sono protagonista proprio di una caccia al tesoro durata 20 anni e che si è spostato a seconda dei periodi e delle varie opacità che a volte sono cambiate nei paradisi fiscali. In pratica non abbiamo fatto altro che, partendo dall'ultima sentenza della Cassazione del 1 agosto 2013, andare a ricostruire quanto era già stato accertato di proprietà all'estero, di denaro tenuto all'estero, poi magari il reato è andato in prescrizione o è cambiato la stessa definizione del reato. Però si tratta appunto di entità accertate dalla magistratura e che alla fine sono rimaste nella proprietà di Silvio Berlusconi nonostante la condanna. Ecco, tesoro nascosto di Silvio Berlusconi all'estero. Molte di queste vicende appunto le abbiamo volta per volta raccontate nei singoli passaggi delle varie inchieste, dei processi, del processo Mediaset soprattutto, di quello Mills e poi ancora negli altri del passato. Ecco, una carrellata di questi paesi esteri dove avete trovato e ricollegato e ricostruito passaggi di questo tesoro nascosto, quali sono questi paesi? È stato in un primo momento sicuramente la Svizzera, poi quando in Svizzera sono cambiate le norme che proteggevano in modo ferreo il segreto bancario, si sono poi spostate in zone come le Isole Vergini Britanniche, ma anche San Marino, Svizzera, Malta, come abbiamo detto. Un altro luogo preferito sono le Jersey, nelle isole del canale della Manica, oltre a Panama, che è tornata tra l'altro all'onore delle cronache per le dichiarazioni di La Vitola. E poi ci sono anche delle tracce, le più recenti, che portano anche ad Hong Kong. E infatti su Hong Kong poi c'è una vicenda tuttora aperta, che è quella che ha raccontato anche qui ai nostri microfoni, oltre che ai magistrati, Sergio De Gregorio, riguardante appunto una rogatoria che i magistrati di Milano nel processo Mediatrade hanno chiesto per avere informazioni appunto anche sui conti riguardanti diciamo personaggi anche vicini al Cavaliere. E la vicenda che Sergio De Gregorio ha raccontato era del suo tentativo di bloccare questa rogatoria per cercare in qualche modo di favorire Berlusconi, ma questo attiene anche ad un'altra vicenda, ad un'altra filone giudiziario che poi porterà anche Berlusconi ancora a processo a Napoli proprio per la compravendita del senatore De Gregorio. Infatti poi gli atti da Hong Kong sono arrivati a Milano. Ci sono dunque i luoghi di questo tesoro nascosto che abbiamo in qualche modo sintetizzato, ma ci sono anche gli uomini del Cavaliere Nero. Voi la chiamate la corte del Cavaliere Nero. Volta per volta, chi sono stati? Ricordiamoli questi nomi che hanno partecipato a, diciamo, anche alla realizzazione di questi sistemi offshore finiti ora in un'inchiesta, ora nell'altra. Prima diciamo che c'era un sistema articolato fondamentalmente sulle offshore che avevano più o meno gli stessi responsabili. Uno di questi è sicuramente il banchiere del BUE, della banca Arner svizzera, che è stato al centro di passaggi molto delicati delle vicende di Silvio Berlusconi. Poi è finito il periodo delle offshore, perché sono cambiati anche, proprio perché sono cambiati i controlli fiscali. Passiamo a una serie di personaggi, tra cui il principale è sicuramente Frank Agrama, anche perché è stato citato proprio da Berlusconi, definito un vero e proprio millantatore, truffatore. Ecco, su questo torniamo su Agrama, ma ricordiamo anche gli altri nomi, che sono tratta di personaggi che, diciamo, forse sono poco noti alla grande pubblico, ma che invece nelle vicende giudiziarie hanno ricoperto dei ruoli e delle diciamo hanno una fetta molto importante nella ricostruzione di passaggi opachi di denaro. Certo. Sicuramente uno di questi è Daniele Lorenzano, che era uno dei plenipotenziari, diciamo, della Fininvest, rappresentava proprio la Fininvest prima e Mediaset dopo, sia da interno sia come consulente esterno. Un altro era Giraudi e Cuomo, che sono due intermediari che il primo non ha praticamente niente a che fare col mondo del... stiamo sempre parlando di compravendita, in qualche modo, di diritti di cinematografici, che era il sistema individuato poi dalla Cassazione come appunto un sistema pensato proprio per incamerare fondi neri. E questi personaggi, un personaggio come Giraudi, fondamentalmente entra nel mercato dei diritti cinematografici per le televisioni, e praticamente nel giro di pochi anni, senza conoscere nessuno, senza avere nessuna esperienza nel settore, riesce a fatturare milioni e milioni e milioni di dollari, e guarda caso sempre con imprese, con società legate alla Silvio Berlusconi. Ecco, voi mettendo insieme tutte, seguendo appunto come nella più classica delle tradizioni del giornalismo investigativo, il percorso dei soldi, mettete insieme un po' parte di questa galassia del mondo Fininvest e arrivate alla somma pazzesca di 1.277.000.000 di euro, che secondo i vostri calcoli sarebbe il tesoro nero appunto di Silvio Berlusconi. Calcoli che tengono insieme la somma di cosa? Dei fondi neri? Come arrivate a questo totale? È una stima fatta appunto mettendo insieme diversi anni di indagine, perché a partire dalla sentenza Mediaset è possibile andare a ricollegare a tutto questo sistema già le tangenti di fondi neri, il sistema di cassaforti estere di cui si fece utilizzo per esempio ai tempi del pagamento in nero di Lentini, il giocatore del Milan, stiamo parlando dei primi anni 90, si tratta di una stima fatta sulla base di quello che la magistratura ha accertato in diversi processi, compreso per esempio quello Liberian oppure anche il Lodo Mondadori, sino ad arrivare a questa sentenza che in parte recupera alcuni passaggi delle vecchie sentenze, proprio per evidenziare che il sistema di frode non solo era sistematico, ma è durato per un lungo periodo e aveva sempre lo stesso beneficiario. Quindi possiamo definirla come la punta di un iceberg, una stima sicuramente per difetto. Perché? Perché di alcuni conti bancari, di alcuni offshore, non è ancora possibile conoscere il vero ammontare delle movimentazioni che ci sono state. Sappiamo come uno dei, diciamo, protagonisti, uno dei nomi certamente cruciali ad un certo punto, anzi secondo i magistrati di Milano anche proprio l'artefice della creazione di una fiscalità parallela per Berlusconi, fosse proprio David Mills, che poi ha dato il nome ad uno dei più altri, uno dei processi appunto a carico anche di Silvio Berlusconi. E in quella stessa vicenda un altro nome era stato molte volte portato all'attenzione degli inquirenti e tante volte evocato nelle aule giudiziarie, che è quello di Carlo Bernasconi, un manager poi morto. Addirittura si diceva che fosse lui il Mr. B citato nella famosa lettera trovata a David Mills. Ecco, rientra anche lui in questa corte del Cavaliere Nero, come l'avete chiamato voi, anche Carlo Bernasconi? Sì, Bernasconi aveva, come dire, anche per una fama tutta sua di uomo quasi integro, no? che non metteva in tasca per sé, era circondato anche nell'ambiente dei diritti cinematografici, come è possibile vedere da varie testimonianze, da un certo rispetto, mentre altri personaggi per esempio hanno, come si suol dire, fatto la cresta sulla cresta, no? Si sono arricchiti personalmente. Carlo Bernasconi aveva sicuramente piena fiducia di Silvio Berlusconi per quanto riguardava la movimentazione, la gestione dei diritti e soprattutto la gestione di quel sistema che ha permesso di incamerare all'estero e non solo di sottrarre al fisco italiano, ma anche di tenere e di gestire all'estero un'enorme massa di denaro. Questo sistema è quello che è al centro degli ulteriori accertamenti che riguardano, come diciamo prima, Franca Grama. Perché mentre per anni si era detto che l'importo contestato dalla magistratura come gonfiato, no? Fosse invece rispettoso delle leggi del mercato, Praticamente ora a grama per la difesa di Silvio Berlusconi è diventato quasi un impostore che si presentava alla Paramount come rappresentante Fininvest e alla Fininvest come rappresentante Paramount, che avrebbe frodato lo stesso Silvio Berlusconi e non è quindi quel socio occulto che invece indica la sentenza. Come viene considerato dalle sentenze. Ultima cosa, ecco, tutto questo avviene dietro le quinte, diciamo, del meccanismo della compravendita dei diritti televisivi. È questo appunto lo schema che si è ripetuto negli anni. Sappiamo perfettamente come, diciamo, la tesi difensiva sia di tutt'altro genere, come l'ex premier abbia sempre ricordato invece come la gran quantità di tasse pagate dal suo gruppo e di come invece tutto questo a suo dire non sia mai avvenuto, perché appunto tutto ruota intorno al riconoscimento del ruolo che lo stesso Agrama aveva per la Mediaset in questa operazione di compravendita dei diritti TV. Ma raccontiamola in parole povere, cioè voi raccontate anche proprio i documenti di questa operazione, avete ricostruito, rimesso insieme, ricollegato e pubblicato nel vostro Cavaliere Nero. Che cosa era questa compravendita dei diritti TV? In sostanza, che cosa faceva Agrama? È stata spiegata benissimo in una mail che è anche agli atti. Viene definito uno shell game, che in italiano corrisponderebbe un po' al gioco delle tre carte. In calce al fatto che questo responsabile di una major statunitense spiegava che le televisioni di Berlusconi erano fatte per perdere praticamente. Spiegava questo shell game, questo gioco delle tre carte. In pratica venivano comprati i diritti, mettiamo, di un film, veniva fatto un contratto, questo contratto poi non arrivava direttamente a Mediaset che l'avrebbe messo in onda, ma passava attraverso una serie di altre società, a volte fasulle, a volte invece di persone che lavoravano nei diritti, ma per il semplice motivo di gonfiare i prezzi, quindi alzare i costi per quanto riguarda la trasmissione in Italia, quindi sottrarre denaro alle tasse, ma poi questo denaro dei vari passaggi, a volte erano anche 3-4 passaggi in delle società che di fatto servivano soltanto appunto a far gonfiare il prezzo, questa maggiorazione di prezzo, che in media era di 3 volte, rimaneva incamerata all'estero. Perché? Perché poi Mediaset faceva dei subcontratti per mettere in onda i film oggetto dei diritti con una di queste offshore, che era poi la cassaforte che pagava parte dei diritti in America una volta che la trasmissione era avvenuta. Quindi c'erano questa moltiplicazione di passaggi intermedi. Per riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account invece è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.